viaggio con Easy Riders. Eh sì, caro Glenn Hughes, con il tuo acuto che sancisce l'inizio sancisce che Easy Rider è online anche questa sera. Insomma, oggi lunga giornata lavorativa per noi DJ di Rock FM ed eccomi finalmente tornato nella mia veste più consueta, ossia il conduttore di Easy Rider, che inizia abbastanza puntuale, dai 21:05, adesso 21:07, insomma già ti fanno sentire i vostri primi SMS che arrivano e vuol dire che è tutto regolare, tutto come sempre, almeno finché ci è concesso. Allora, ieri sera è stata una puntata particolare, una puntata celebrativa. Ho promesso che in parte questa sera avrei un po' proseguito su quella linea, la linea delle vibrazioni che hanno reso la mia vita più intensa e infatti in parte rispetterò questa cosa. Però innanzitutto, visto che ieri ho compiuto gli anni, oggi mi sento diverso, in qualche modo vorrei chiamare in causa il maestro Fricantoni. Con la sua band, gli Schiantos, terzo album, 1979, loro cantavano una canzone che oggi, insomma, vorrei che mi rispecchiasse, allora così, un po' per partire con un piede diverso dal solito, voglio farvi ascoltare questa traccia particolare dall'album Chinotto, 1979, loro sono gli Schiantos, alla voce il maestro Fricantoni, alla batteria Leo Tormento Pesto Duro. E questa è Sono Buono, un po' come mi sento io. Qualche volta io mi cerco la rivolta, ogni tanto poi mi sento molto stanco, però oggi ho trovato il giusto tono. Sono buono, sono buono. Oggi io mi sento proprio bene, forse son finite le mie pene, soffrire sempre non conviene. Sono buono, sono buono, forse mi volevi più cattivo, più deciso e più aggressivo, ma oggi ho trovato il giusto tono. Sono buono, sono buono. Mi piacciono le bibite e i gelati, mi piacciono le bibite ghiacciate, i gelati io li mangio solo in cono. Sono buono, sono buono. Mi mangio tutti i dolci alla panna, perché me li faceva la mia mamma. I dolci per me sono un grande dono. cattivo, più deciso e più aggressivo. Ma oggi ho trovato il giusto tono. Sono buono, sono buono. Ecco che sfuma, quanti ricordi legati non solo a questo disco degli Skiantos che si intitola Chinotto, che insomma ha visto protagonisti proprio questa formazione bolognese alla fine degli anni 70 e che io ricordo proprio in tempo reale, perché era il momento in cui ascoltavo già, per quanto fossi ancora un infante, ascoltavo già questo tipo di sonorità, ma i ricordi sono legati alle ultime due date della Rock FM Stars Band, che sono state deliziate dalla presenza del maestro Fricantoni, che abbiamo ritrovato in questa splendida forma. Sono buono e oggi insomma alla veneranda età di 39 anni mi sento anch'io un po' più buono. Sarà che con l'età arriva anche la saggezza e quindi abbiamo il dovere di non tanto di intenerirci quanto di meditare di più. Ragazzi, non cominciamo come ieri, eh. Io ieri non ho letto per scelta i messaggi perché erano troppi e poi soprattutto dal punto di vista dei contenuti erano tutti molto simili, quindi dei grandi auguri, dei grandi saluti e del grande affetto. Questa sera insomma torniamo alla norma, però già ce n'è un numero spropositato. Vorrei inoltrarvi 335-100-7777, il solito numero di sms, piuttosto che la mail mox@radiorockfm.com. Cercherò di andare veloce prima di ascoltare i brani che ho tralasciato un po' ieri sera, un po' insomma stasera improvviseremo. Pensate che non ho neanche scritto la scaletta, ho solo portato i dischi, così come fa Fabio Treves. Che partenza, Mox? Max da Bologna dice con Tommy Bolin. Bravo, ti sei accorto che Tommy Bolin è il chitarrista di una delle due storiche sigle di Easy Rider. Poi, quando persone inermi subiscono limitazioni culturali o della libertà di parola, tale movimento che limita sui libri di storia italiani viene chiamato, e poi c'è un'interruzione, ma non è un'interruzione, non è una censura mia, è proprio così, viene chiamato F. Arriva la parola, in realtà c'è scritto viene chiamato fascismo, questo è un amico livornese che scrive così, è semplicemente il messaggio è arrivato in due parti intercalate da altri. Ancora auguri da parte del fungo, stasera mi deve tradire per un'ora di sala prove, ti perdono, certo, se suonerete bene come credo e penso sei assolutamente perdonato. Poi anche MTV sul proprio sito e sul televideo a pagina 222 ha dato la notizia della chiusura di Rock FM, almeno si sono interessati. Questo è l'amico Andre, grazie della notizia. Poi auguri per ieri, oggi ti ho visto in TV, si parla appunto di una comparsata a Rock TV, ti ho sempre immaginato così. Bravo, però devo dirti che i miei 60 anni ieri sera hanno vacillato nella maggior parte dei brani che hai trasmesso, mentre martedì ho goduto per due ore. Comunque, bravo, nella totalità mi fai ringiovanire di 40 anni. Questo è l'amico milanese Ciro, 1948. Poi, chi abbiamo? Lorre, dice, era molto tempo che non mi sintonizzavo. A quest'ora devo dire che il tuo stile zen di condurre è troppo bello. Grazie per lo stile zen. È una cosa che francamente ignoravo. Renato dice qual era Renato faceva una domanda relativa a un argomento introdotto dall'amico Edo prima un paio d'ore fa, Brian May dei Queen, che si è interessato per salvare una radio esattamente identica o comunque molto simile a Rock FM, ossia Rock Planet, che è una radio credo londinese che sta per subire la medesima sorte. Quindi un bravo a Brian May, e voleva sapere il sito, non ti so rispondere, dovrei informarmi. Manuel dice grazie di tutto quello che ci avete dato e ci darete ancora per poco, oggi vi ho salutato su Rock TV ironizzando sul nuovo colore dei capelli del DJ Ariele. Eh sì, perché voi non lo sapete, ma il DJ Ariele ha cambiato drasticamente il colore dei suoi capelli. Allora io vi faccio ascoltare un gruppo che sentite sempre, proprio sempre, sempre, sempre, io ve lo faccio ascoltare lo stesso. 1973, Sabbath Bloody Sabbath, è il titolo del quinto album per l'appunto dei Black Sabbath, dal quale ho scelto una delle mie canzoni preferite, ossia Spiral Architect. Thank you. Applausi finti in questo finale di un disco bellissimo, un disco inglese del 73, il quinto album dei Black Sabbath, per l'appunto Sabbath Bloody Sabbath, uno dei loro dischi, concedetemi la parola, più progressive in assoluto, e un brano come questa Spiral Architect in qualche modo lo faceva un po' trasparire, ecco, questo è il verbo che cercavo. Quindi uno dei miei album preferiti, tanto per proseguire un po' il discorso relativo alle grandi emozioni della mia vita dal punto di vista musicale, intrapreso ieri in occasione appunto del festeggiamento. Allora, io voglio salutare intanto chi continua a scrivere al 335-100-7777, anche le sue belle considerazioni, come Lorenzo da Carpi, che dice: non ringrazierò mai abbastanza, con il tuo programma hai fatto trovare a me e a mio padre un nuovo argomento di discussione, grazie davvero. Bene, questa è una bella notizia, devo dire, assolutamente soddisfacente. Poi un bacio all'amica Veronica, che anche lei insomma si lamenta del fatto che purtroppo tutta questa dose di bella musica, di conoscenze, insomma, è destinata a finire. Insomma, la sensazione è quella di vediamo se riesco a leggere il suo messaggio, perché arrivano un po' mischiati. Insomma, la sensazione è quella di perdere qualcosa di importante, ovviamente. È una sensazione che abbiamo tutti, ovviamente. Andiamo avanti con la musica. Io voglio farvi viaggiare esattamente come ho fatto lunedì scorso. Premetto che domani sera non sarò in onda live, visto che sarò live su un palco, quello del Telefilm Festival in Piazza Liberty, quindi in pieno centro qui a Milano, con la Rock FM All Stars Band. E allora facciamo partire un attimo, che ho il piatto particolarmente distante questa sera. Allora, io farei partire questo brano che appartiene al repertorio del batterista per antonomasia, un batterista di colore nato nel 44, si chiama Billy Cobham. Rimaniamo nel 73, se non vado errato, con un suo album fondamentale, forse il più importante della sua carriera. Si intitolava Spectrum e conteneva un brano classico, molto anche sfruttato, campionato, rielaborato, si chiamava Stratus. Allora, vi faccio ascoltare questo pezzo notturno, questo brano da assoluto viaggio per uno dei più grandi percussionisti e batteristi della storia dell'uomo, ossia Billy Cobham, da Spectrum.